Mana baby ya che Becky oh Becky mere ma ko mama o a Becky baby oh baby mere ma ko mama o a baby love mo love mo love mo baby girl I love you oh eh Becky oh Becky mere ma ko mama o a Becky baby oh baby mere ma ko mama o a baby Becky oh Becky mere ma ko mama o a Becky Baby.